le mani asciuga, carezza che ti bagna, fiocco di neve cade come piuma sopra la montagna, corrente d'acqua da bere con le mani, parco cittadino, bella ragazza che gioca con i cani, ospitalità, dolce benvenuto, trasformare melodia lo strascico di uno star muto, salute, niente medicine, con il mio aeroplano sorvolare sulle tue colline, atterrarti morbido sopra le tue guance, rumo da Mogok, la metafora delle tue arance, ascoltare il padre eterno che improvvisa jazz, vento sulle foglie che procedo caccia via lo stress, starsene così, con in faccia un sì, fino a lunedì. Dolce fare niente, dolce rimandare, stare con i piedi penzoloni guardando il mondo girare, andare andare e aspettare dolcemente l'ora di mangiare, guardare l'erba crescere, l'acqua evaporare, tranquillamente all'ombra di una fresca brezza fatta carezzare, dare forma a ponte, bolle di pensieri che scoppiano nell'aria, no, la pena si fa troppo seri o troppo peso, starsene leggeri, trasformare le ore in mesi, come foglie a lungo fiume dentro la corrente, dolcemente arrendersi, dartene cose, con in faccia un sì, fino a lunedì. Dolce respirare, con i bracci punta al fine, sì, non farti trasportare dalla riga bianca in mezzo al nero delle strade, stare come un fiore nella pioggia di quello che accade, sentire gli odori, la merda dei porcini, confondersi con il profumo d'erba di infinite aprili, starsene così come non sa chi c'ha da fare, con il volante tra le mani, il ritmo che ti fa dondolare, niente male, dondolare, sentirsi come sale, silenzio di dentro un grande mare, starsene così, ah, con in faccia un sì, fino a lunedì. Dolce respirare, dolce far vacanza senza viaggi da organizzare, agenzie turistiche, sudori d'aeroplano, dogane e pizzerie sempre più uguali, chi si va lontano, vivere su Marte, cambiare l'atmosfera, respirare ossigeno, respirare ossigeno e respirare pura primavera, pura primavera, pura primavera, primavera.